guarda un bambino giocare, guarda le onde del mare, scoprirai di nuovo il miracolo che non sai più credere. Cerca nel bene e nel male un'occasione d'amore, sentirai ancora di esistere, respirare e vivere. Osserva e vedrai, nascondo saprai. Osserva e vedrai.